sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 marzo, il sole in regione è sorto alle 6.38 e tramonterà alle 18, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Ultimo approfondimento oggi dei temi di viticoltura in Friuli Venezia Giulia. Il professore Enrico Peterlunger fa alcune considerazioni sulle strategie in atto e quelle futuribili per valorizzare il ricchissimo patrimonio enologico della regione che ancora soffre di astorici localismi. A seguire la storia di Angelo Floramo che parla di quanto il patrimonio dei boschi fosse già caro ai vescovi di Bamberga sul volgere del Cinquecento. Ci sono nuove provvidenze per la riqualificazione delle malghe, ne parliamo nella rubrica delle normative, mentre in quella della frutticoltura c'è una scheda sul dimenticato e a rischio di estinzione nespolo comune. Come le api tecnicamente producono il miele è l'argomento della rubrica specifica che dedichiamo a questo insetto. Argomento dibattuto e spesso controverso nello spazio per gli alberi, ovvero le potature, cui seguirà l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano della settimana. Ultima puntata oggi con il professor Enrico Peterlunger, che insegna viticoltura all'Università di Udine, sugli approfondimenti appunto di viticoltura. E per chiudere questa serie di interventi ci parla dell'aspetto economico, della promozione, di come il vino friulano prende le vie del mondo e di come gli agricoltori, i viticoltori, prendono nuovamente la via della vigna. L'offerta vitivinicola del Friuli è veramente ricca e di alto pregio. Con questo potenziale qualitativo si può affrontare i mercati contando su una solida base. Se a questo aggiungiamo la bellezza del paesaggio, dei panorami naturali, ma anche delle gemme della ricchezza di bellezze archeologiche, storiche e culturali, si forma un complesso di motivi di grande interesse che possono attirare i turisti, o meglio gli enoturisti. Quello del turismo legato al vino è un settore in espansione e può rappresentare e rappresenta di fatto una importante integrazione di reddito per l'azienda vitivinicola. Che il nostro paesaggio e i vini colpiscano il visitatore nella maggioranza dei casi ignaro, non essendo il Friuli molto conosciuto a chi abita un po' più in là, è un fatto che continuiamo a verificare. I molti ospiti stranieri che vengono per rapporti e collaborazioni con l'università, ma anche con altri settori economico-produttivi, questi visitatori ospiti restano ammirati. Questo costituisce un potenziale importante. Tuttavia, quello che manca è strutturare meglio l'offerta da parte delle aziende, sia per le strutture fisiche che per la professionalità dell'accoglienza. Anche questo, e cioè l'accoglienza in cantina, in azienda, è un mestiere che non si improvvisa. È necessario investire sull'architettura, sull'arredamento, d'accordo, ma anche, direi soprattutto, sulle persone incaricate dell'accoglienza, che devono essere formate. Questo proposito, nell'ambito degli enologi è sempre più condiviso il parere che l'enologo è indispensabile che sappia presentare efficacemente i vini non solo dal punto di vista tecnico ma anche culturale, storico, eccetera. Ogni cantina ha ed è bene che abbia una storia da raccontare. Un altro aspetto che può portare a dei miglioramenti tecnico-economici all'azienda vitivinicola è l'applicazione del metodo Lean, parola inglese che significa snello, semplice. Si tratta di razionalizzare le varie operazioni e passaggi intermedi della produzione, guadagnando in tempi e riducendo errori e costi. Il metodo è adottato dall'industria da vari decenni, in particolare dall'industria automobilistica, ad esempio la Toyota ha usato molto e usa questo metodo. E si sta iniziando ad utilizzare nelle aziende vitivinicole anche in accordo con principi e procedure dell'economia circolare. Sono azioni che vanno correttamente verso la riduzione dell'impatto ambientale della produzione vitivinicola e possono davvero rappresentare un miglioramento dell'efficienza. Una parola sui prodotti, i vini. Le tipologie di vino in regione sono molte, forse troppe. Questo viene da un passaggio molto importante degli anni 60 del secolo scorso, che è stato il passaggio da vino genericamente bianco o nero, per la maggioranza dei prodotti non si faceva una volta molta distinzione, ai vini varietali, strutturati nelle regole dei disciplinari DOC. Si è ritenuto indispensabile e strumento di miglioramento della qualità il vino monovarietale. Ma scrivendo i disciplinari, prima di tutto ci si è preoccupati di non lasciar fuori nessuno e dunque molte varietà sono state state inserite nelle DOC. A distanza di 60 anni però una riflessione sarebbe utile e opportuna. Il Friuli, la regione, si caratterizzano per quali vini? I vini bianchi in primis. A questo punto i bianchi potrebbero essere ridotti a quelli che danno le prestazioni migliori per semplificare il mercato e avere una identificazione migliore e più chiara. Questo principio applicato è stato, seppur in parte, positivo. Esistono però aspetti negativi. Il vino monovarietale è di fatto una forzatura, anche rispetto alla tradizione di mescolare vini di varietà complementari, il che non è annacquare la qualità e rovinarla, ma bensì arricchirla. Ricordo un libro toscano del 1700 che riportava le ricette di decine di vini ottenuti con più varietà mescolate in proporzioni diverse e lavorazioni diverse. A questo punto una proposta potrebbe essere esplorata e sperimentata. Facciamo un Friuli bianco, o chiamato con altra denominazione altrettanto semplice ed efficace, con le varietà che vengono meglio qui. Questo vino, con parametri non troppo stretti, può diventare rappresentativo del territorio, un vino che interpreti e dia corpo, immagine e vestito al territorio friulano. Già l'esempio del Collio Bianco, che è un'idea riuscita, può essere incoraggiante in questa direzione. Sento però già le obiezioni. Ma no, figurati, è troppo difficile mettersi d'accordo su un'idea semplice ed efficace. E qui veniamo ad un punto dolente. In Friuli, ma non solo qui, il nemico dell'azienda vitivinicola è l'azienda vicina, che vende lo stesso vino magari a un prezzo leggermente inferiore. D'accordo, è difficile mettersi d'accordo, ma con 1,5 milioni di ettolitri di produzione nel mercato nazionale e globale, la nostra massa critica è troppo piccola e frazionata. La vera concorrenza da battere non è fra le aziende friulane o regionali, ma il vino di altri territori che magari fanno una promozione più efficace e unita. Se si riuscisse a unire i viticoltori friulani su un progetto di questo tipo, credo che l'amministrazione regionale darebbe il suo appoggio. La consapevolezza che il bosco sia un patrimonio indispensabile per la vita delle comunità era ben presente anche nel passato, tant'è che i vescovi di Bamberga, già sul volgere del 500, dedicarono al loro utilizzo minuziosi statuti. Da qui parte la storia di oggi di Angelo Floramo. La diocesi di Bamberga possedeva due grandi complessi forestali, uno nella Val Canale e l'altro nei dintorni di Bleiberg. L'arcivescovado volle imporre delle regole per il bosco, per il suo sfruttamento e la protezione dello stesso. La prima edizione di tali statuti risale all'anno 1584. Il documento è di un'importanza fondamentale per riuscire a comprendere la vita quotidiana che orbitava attorno ad una grande foresta nel XVI secolo. Il bosco non solo offriva di che mangiare alla popolazione residente, che vi trovava una immensa dispensa naturale in cui raccogliere bacche, radici, funghi e miele selvatico. Per quanto la caccia degli animali di grossa taglia fosse preclusa ai contadini e ai boscaioli, fatta eccezione per gli animali considerati dannosi come orsi e lupi, i valligiani potevano tendere lacci a conigli, scoiattoli e tassi, impaniare i rami per prendere gli uccelli. Molte erano le attività lavorative specializzate che trovavano nella foresta una risorsa estremamente preziosa. I fucinieri che preparavano la calce, i carbonai che facendo bruciare lentamente la legna sotto i cumuli di terra e foglie producevano il carbone, e ovviamente i boscaioli, ma accanto a questi i carpentieri, i bottai, i falegnami. La giurisdizione della foresta inoltre si estendeva anche alle miniere, dunque tra i lavoratori del bosco è necessario annoverare anche i minatori. Consapevoli che la foresta fosse un luogo in cui trovano rifugio banditi, briganti e fuoriusciti, gli statuti si dimostrarono estremamente severi contro tutti coloro che offrivano loro ricetto e accoglienza. Interessante la diffidenza dimostrata nei confronti di pastori di capre o di pecore, che, abituati evidentemente a condurre una vita seminomade, spesso transigevano agli ordinamenti. Un valdarius, ovvero una guardia boschiva, aveva il compito di far rispettare tutti gli articoli, che restano dunque una fonte davvero preziosa per ricostruire la vita quotidiana di una comunità che nel bosco e nel suo delicato ecosistema trova la sua ragione d'esistere, ma anche un insegnamento che nei secoli rimane come un monito per i tempi che verranno. Così recitano: noi, per primi, che siamo i vescovi reggenti di Bamberga, vogliamo emanare codeste leggi per proteggere i nostri boschi, perché l'utilizzo del legname nelle miniere, nelle fucine, negli ambienti domestici non comporti il fatto che i boschi si impoveriscano e i nostri figli non rimangano senza legna e senza carbone, così che anche quelli che verranno dopo di noi potranno giovarsi di questi boschi. All'interno della legge regionale di stabilità per il 2022 troviamo incentivi per la riqualificazione delle malghe. Ne parliamo con Marco Mallison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. La regione riconosce l'importanza dell'attività malghiva come modello di gestione del territorio montano fondato su attività che nel corso del tempo hanno permesso di conservare e qualificare la produzione lattiero-casearia. E così, al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la gestione sostenibile dei pascoli, anche l'attività di monticazione connessa al benessere animale e il presidio del territorio per prevenire dissesti idrogeologici, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a quanti possiedono o comunque conducono compendi malghivi in cui nel corso di almeno uno degli ultimi 3 anni è stata svolta l'attività di produzione e trasformazione di latte. Per quali investimenti è previsto l'aiuto? Le spese ammissibili riguardano interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e le relative pertinenze, la realizzazione di impianti che ne consentano la riqualificazione, l'acquisto di nuove attrezzature per l'attività di trasformazione e commercializzazione e anche spese tecniche collegate alle voci precedenti. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80% della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Il contributo, su richiesta del beneficiario e senza necessità di garanzie, può anche essere erogato in via anticipata. Attenzione che queste condizioni di particolare favore sono permesse solo grazie al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato previsto dalla Commissione europea per far fronte agli effetti economici della pandemia da Covid-19, regime che, salvo proroghe, terminerà il 30 giugno 2022. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo utilizzando la modulistica scaricabile dal portale della Regione, dove sono pubblicati anche i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie. La documentazione da allegare è estremamente semplice, in quanto si limita alla dimostrazione del titolo di possesso della malga, a una relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, putometrico in caso di interventi strutturali e i preventivi di spesa per le attrezzature da acquistare. È più facile trovarli nei proverbi e nelle imprecazioni. Sono i nespoli comuni, cui oggi il professor Raffaele Testolin dedica un'appassionata scheda. Il nespolo comune, Mespilus germanica, è il suo nome latino, è stato dimenticato al punto che raramente riusciamo a riconoscere nei parchi e nei giardini la pianta. Eppure un tempo era uno dei frutti, assieme a mele, pere, cachi e uva passa, che i nostri vecchi conservavano in granaio per l'inverno. E non parliamo del sorbo perché non voglio allargarmi. Il nespolo comune, se proprio volete averlo in giardino, lo piantate e ne raccogliete i frutti ad autunno inoltrato, dovete fare poco altro. Qualche potatura sommaria, se poi avete qualche amico botanico e venendovi a trovare si accorge del vostro nespolo, rischiate che vi abbracci e si metta a piangere in segno di riconoscenza per aver salvato una specie in via di estinzione. Invece, conoscete certamente il nespolo del Giappone, quella strana pianta sempreverde che fiorisce stranamente d'inverno, freddo o non freddo, poco importa, e matura i frutti poco dopo, una stranezza che non ho mai smesso di ammirare. Il nespolo del Giappone è diventato con il tempo più famoso del vecchio nespolo comune, vuoi per il fogliame molto ornamentale, vuoi per i frutti apprezzati certamente più di quelli del fratello ormai dimenticato. Come al solito, e so di fare felici molti ascoltatori, la coltivazione richiede poche cure. La pianta cresce da sola e una volta piantata la si può dimenticare, ricordandosi solamente ogni tanto di raccogliere i frutti. Nella scorsa puntata con Moreno Greati, che ci cura la rubrica delle api e dell'apicoltura, avevamo parlato del miele, di che cos'è il miele. Oggi passiamo a come viene fatto il miele nell'alveare. Subito dopo l'assunzione del nettare, già durante il viaggio di ritorno all'alveare, all'interno della borsa melare dell'ape inizia la trasformazione in miele mediante l'aggiunta di enzimi da parte dell'apparato digerente dell'insetto. Le bottinatrici, una volta rientrate nell'alveare, rigurgitano il nettare contenuto nella borsa melaria alle api di casa che, tramite la ligula, se la passano per più e più volte l'una con l'altra, aggiungendo ulteriori enzimi e concentrandolo. Dopo diversi passaggi, il nettare viene depositato nelle cellette per essere ulteriormente concentrato. Nelle cellette l'evaporazione dell'acqua viene favorita attivamente dalle api, che succhiano e poi stendono ripetutamente nelle celle una gocciolina di nettare, e passivamente per evaporazione determinata dalla ventilazione forzata attuata sempre dalle api. Durante questo processo gli zuccheri contenuti nel nettare subiscono delle trasformazioni provocate dagli enzimi aggiunti dalle api. In particolare, saccarosio, formato dalla combinazione di due zuccheri semplici, glucosio e fruttosio, normalmente contenuto nel nettare in percentuali elevate, viene scisso nei due zuccheri più semplici che lo compongono. A questo punto il nettare è stato trasformato in miele e, quando è sufficientemente concentrato, con un contenuto di acqua inferiore al 18%, è maturo e le api lo proteggono con un opercolo di cera, una sorta di tappo. Quando il miele è maturo, può essere raccolto dall'apicoltore, che lo estrae dai favi con lo smielatore, un attrezzo che sfrutta la forza centrifuga per far uscire il miele dalle celle. Una volta estratto, il miele viene filtrato e posto nei maturatori, che sono dei contenitori cilindrici dove rimane in acciaio inox, dove rimane per 3-4 settimane, in seguito invasettato. Spesso nei consumatori sorge spontanea la domanda di come le api possano produrre il miele di una determinata specie botanica, i cosiddetti mieli monoflora. Le api presentano una caratteristica unica, ovvero la fedeltà alla fonte di bottino. Quando iniziano a bottinare una specie vegetale in fiore, lo faranno per tutta la durata della fioritura. Questo consente di produrre i mieli monoflorali, come l'acacia, il tiglio, il tarassaco e molti altri ancora. L'Italia, grazie alla sua geografia, è il paese al mondo dove si producono più mieli monoflorali. Ne sono stati riconosciuti e caratterizzati più di 40 tipi. È sicuramente uno degli argomenti più spinosi quello che affrontiamo oggi con Giorgio Valvason, l'arboricoltore che ci conduce assieme a Roberto Barocchi e Aldo Cavanni la rubrica degli amici alberi. Stiamo parlando di potature. Sarebbero obbligatori tre interventi. Un primo intervento quando la pianta è ancora piccola, dal seme appena nata, dopo un anno, due, si fa la potatura di formazione per dare un indirizzo alla pianta. Dopodiché fondamentale è la potatura all'impianto, che io non vedo che generalmente venga fatta secondo i canoni. La potatura all'impianto dà l'opportunità alla pianta di non essere più toccata a vita, di non essere più potata, perché l'albero deve essere, io parlo dell'albero, deve essere collocato al posto giusto. Si andrà solo una volta diventata adulta a tagliare i rami secchi che non cadano in testa, per il resto non ha più bisogno. Vedendo cosa succede nei nostri giardini e nei nostri viali, siamo quindi un pochettino troppo disinvolti nelle potature? Io direi di sì, dovremmo cercare di approfondire il più possibile. E come? Devo dire la verità, non ci sono scuole specifiche a riguardo, però bisogna fare una ricerca e trovare le persone che perlomeno possano dare delle dritte. Per quanto c'è una letteratura molto approfondita e pertanto basta cercare, insomma. Io ho letto grandi autori perché mi hanno dato l'opportunità di lavorare con una semplicità estrema, seguendo i loro schemi e i loro consigli. Quindi la potatura è uno dei momenti strategici per un albero. Sì, io vedo dei grandi alberi, perché vivono in ambienti ristretti dalla casa, dal condominio, e vengono potati quasi con il tagliasieppi, arrotondati. L'albero non ha quell'aspetto arrotondato, l'albero deve essere libero, pertanto quando noi tagliamo un ramo dobbiamo pensare che abbiamo deviato l'intento, lo sviluppo, la voglia di andare avanti alla pianta. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi in forte rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 32,30 e 32,50 euro il quintale IVA esclusa. L'ordo peso specifico 62,65 tra 29,60 e 30 euro. Il frumento tra 33,33,50 e la soia tra 64,50 e 65 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 10,60 euro e la soia di 15 euro il quintale. Modeste contrattazioni all'altro frutticolo di Udine con prezzi stabili, risata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,10 e 1,20 euro il chilo IVA esclusa, la ricchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60, quello di Treviso precoce tra 1,60 e 1,80, le arance Navel tra 1,30, le tarocco tra 1,30 e 1,30. Nel settore della pesca, anche se le temperature non sono ancora ottimali, i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Brano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 18 a 30 euro al chilo IVA esclusa, le sogliole da 6 a 23, le canoce da 4 a 14, le orate da 5 a 18, le passere da 6 a 12, le capesante da 13 a 15 e le seppie da 10 a 15. Scambi attivi invece nel settore dei prodotti caseari con quotazioni in aumento. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 6,50 e 6,80 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4 o 6 mesi tra 7,60 e 7,90 con marchio di qualità tra 8,60 e 8,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,20 e 8,60. Miglioramento anche del prezzo del latte crudo di vacca francostalla di origine Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone Udine giovedì scorso lo ha quotato tra 40,05 e 41 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Questo primo scorcio di marzo è iniziato con condizioni del tempo di stampo ancora invernale, giornate abbastanza soleggiate e temperature un po' più basse rispetto alla media del periodo, soprattutto per i valori minimi, che sulla zona montana e in pianura sono stati finora di 3-4 gradi sotto la norma, 2 gradi sotto media invece sulla costa, dove la presenza del mare con una temperatura di circa 9 gradi riesce comunque a mitigare un po'. È tornata anche a soffiare la bora, più forte domenica scorsa, 27 febbraio, con raffiche fino a 108 km orari a Trieste, poi ancora presente in settimana a giorni alterni. Nei prossimi giorni continueremo a essere interessati da correnti nordorientali abbastanza secche e piuttosto fredde per il periodo, soprattutto in quota, che manterranno tempo stabile e soleggiato. Domani e martedì è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Soffierà ancora bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, specie al mattino in serata. Lo zero termico rimarrà piuttosto basso, intorno a 800 metri di quota circa, e favorirà il mantenimento di temperature basse, specie sulla zona montana, alcuni gradi sotto zero di notte anche in pianura, intorno allo zero sulla costa, mentre le massime rimarranno fra 8 e 10 gradi. Nella seconda parte della settimana l'evoluzione è un po' incerta, non tanto per quanto riguarda lo stato del cielo, che sembra permanere ancora per lo più sereno, con aria secca e assenza di precipitazioni, quanto piuttosto per l'andamento delle temperature. Alcuni modelli di previsioni simulano un lento e progressivo aumento, mentre altre simulazioni prevedono l'arrivo di masse d'aria da est ulteriormente più fredde rispetto a quelle attuali. Si rende quindi più che mai necessario seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. A San Tommaso il freddo al va in pace, ovvero a San Tommaso il 7 marzo il freddo se ne va in pace. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook, sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montaldo Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.